maestro. Era in una limousine di quelle lunghe lunghe che fanno ogni accelera da un litro, di chi si macchina un bel male, di chi si americano. Scortata dai carabinieri con le bandierine davanti, i carabinieri due moto davanti, due moto dietro, più la macchina pure. Cos'è questo grande capo? Cos'è? Chiamano il gran maestro, praticamente il cappuccio di tutto lo smom. E sono di sangue blu, capito? Sono ricoli. Ah, Lucia. L'hanno formato questa associazione qua. Allora già una cosa buona, dai, magari gente che ne aveva e hanno formato questa roba qua. A livello internazionale, non nazionale, internazionale, c'è in Germania, in Olanda. Agostino da poco è andato, mi pare, ad Amsterdam. E c'è anche lì. Beh, a livello internazionale, adesso come c'è anche lì. Ha fotografato le ambulanze per farci vedere la sede, è andato a trovarli. Ma vabbè, un viaggetto che ha fatto. E tutti gli anni se lo fa, tutti gli anni se lo sta facendo, da quando è morto il cane, che non devono più dare attenzione al cane, sta viaggiando tutti gli anni. Scappa. Sembra così, ma la rottura. Io dico una cosa, se uno si prende un animale, deve essere, specialmente il cane che non è indipendente, deve mettersi in testa che non è solo quando è piccolo che è bello e coso che lo devi curare, lo devi curare fino a quando muore. Sa di quello che si sta mettendo in casa, che c'è una responsabilità, che se va fuori se lo deve portare appresso. Se uno non vuole fare queste cose, non le fa. Io sono contrario a quelli che li mettono nei canili. Io ho un amico, per dire, che è andato fuori, l'ha messo nel canile, il cane è stato senza mangiare perché sentiva la mancanza del padrone. Lui è stato 15 giorni fuori e l'hanno dovuto fare anche le flebo perché non mangiava. Che ragazza, non lo so, e purtroppo quando c'è l'impegno devi tenerlo, però se non si va a mangiare pure, non c'è mai, si va a staccare da, a me. Che Nerone, è così Anto, bisogna tenerli bene gli animali, se uno se li mette in casa li deve trattare come uno di famiglia. Io ti sto dicendo, tutte le cure che ha bisogno, che ha avuto bisogno, tu ti sei preso anche un raffreddore, una volta solo gli è capitato, che però gli si sono chiusi le membrane che c'ha negli occhi, no, c'ha delle membrane interne e io lo vedevo con questa cosa bianca davanti agli occhi, mi sono assustato. Poi sentivo, sì, salutiva. Ho preso un altro veterinario, l'ho fatto controllare, mi sono si spaventi di un semplice raffreddore, deve essere, ha preso freddo, cose non è abituato, oppure lo sbalzo di temperatura e cose. E ha queste pastiglie da mettere in mezzo alla roba da mangiare. Io prendevo appena appena di roba da mangiare, gli pestavo la pastiglia, la mettevo in mezzo e le mettevo appena appena. Così quando lo mangiava tutto non gli mettevo il resto. Si mangiava tutto quel pezzo lì, facevo le pastiglie, allora potevo mettere anche il resto. Gappa gappa. Già lo so già. Così si tenere. Purtroppo gli animali qualche volta hanno qualche problema. Qua sta diventando un coccolone che non finisce più. Penso Gassi. Abu due. Già, era lui. Beh, vabbè, Pino. Non se n'è andato. Stavo dicendo, sta diventando un coccolone che non si sente. Beh, non vedo. per dire, è anziano, quello che vuoi, adesso sai cosa c'ha per servizio di venire all'ora di mangiare, viene sotto la mia sedia per chiedere da mangiare, vuole la roba nostra. Che c'era se così? E così. Sono, deve essere la sentono come una coccola, Chiappa. No, sono molto coccolone, sono. Sempre adesso vuole sempre la poltroncina, vuole. Sono fatti così. Senti, addirittura è grande, cioè sta sempre giocando lo stesso. Ci addormi un bel, però se lo fai giocare gioca, capito? Non è che sia di quelli che non giocano, no, prende, se gli fa vedere un qualcosa più insolente, mi fanno io. Che pagava. No. Pure nero resta. Cioè, cosa fa? Resta dormito tutta la sera. E poi, adesso a quest'ora, cioè, arriva fino a quando rientriamo noi e si sveglia. Sempre nella poltroncina. Vista già. A me. E anche. Sono qua. Yeah. C'è qualcuno in mano laterale che sta rompendo. Laterale. Non sento nessuno. No. Negativo. No, non lo so. E vabbè, non c'è problema. Boh, no, non sento manco una mosca qua. Ho fatto anche un giro. Non c'è nessuno. Vabbè, dai. Dove è il disturbo? Qua sul 21. Non sento nessuno. Quando lo vedi tu la vita è. Cosa dice? Non si capisce, ma della fai tutto quanto. Lo sai come? Ma. E allora? Cazzo, non sarà più forte di me disegnare, no? Sì, si copre, te lo dico chiaramente, ti copre di brutto. Quanto dice? Quanto sono di segnale io? 9.30 adesso. Io cazzo ammazzare le palle, mi dice no. Ed è fatta apposta perché quando rilasciate palla, capito? Che palla? Ma non è fendibile. Che è gusti, cazzo. E non è forte anche. Ma auguriamoci che non scopra chi è. Questa gaffa. Non riesco a capire. Io mi sciogo tranquillo e voglio stare tranquillo anche loro che mi lasciano tranquillo, quindi non voglio essere rotto di scatto. Io non ho sentito nessuno, non posso capire chi sia. Se non si capisce tutto. No, non ti so dire. Ma non è più freddo. Capo la gamba. E anche uno che passa di noghi sotto. Sì, era talmente forte che c'è. Sì, ti copriva tutto, dico chiaramente, ti copriva di brutto. Mi copriva lo dopo, ma cazzo, allora un segnalone. Beh. Chiappa. Ti chiamo di bravo i noghi. Vabbè, già siete andati. Poi si sono fulminati. Due, tre. 6, mi se ne stanno fulminando a 3, 9 letti. E mai? E boh, qualche sbalzo di temperatura, è di quelli azzurri che ho messo nel cassetto. Ho troppa tensione. E se è così, che li stavo facendo andare con la tensione che sta alimentando questo apparato, quindi a questo, mi davo 13.8, quindi vanno a 12 e purtroppo sicuramente non era troppo, va. Sicuramente sì. Dico beh. Quando adesso si fumano qui tre poi non succede più nulla. Sembrano fatti apposta. Già, metto un alimentatore a parte già. E prima casa era così, poi l'avevo spedito, quello là ti ricordi? Mi è arrivato là, ho preso i maghi, oi oi oi, per carità, ora mangia sul difetto, facevo prima uno spedito direttamente, sono stati 2 mesi senza darmi da voi, mi danno il besso, stesso un casino con le borse e tutto quanto, da voi per mandarmi d'oro una sapparecchia uguale. Carità. Ma non fa manco a telefonare, se no li prendo a parolacce. Non fa manco a telefonare, perché adesso sapendo che erano così difettosi, provano prima di mandarlo, cosa me lo mandi così senza provare? Ma è inutile, guarda. Ah, io ti voglio far vedere un giorno che cosa fa, si spegne, fa come se ci fosse un contatto, un corto. Il più difettoso. Mi sta che la spina e continua a andare sempre così, no? Anche con la spina staccata. Quando smette di fare quel rumore, si attacchi la spina e si riaccende. KK, poi sono proprio difettoso. E poi non te lo fa più, non te lo fa sino alla prossima volta che lo accendo. Tutti così sono anch'io, mi ha rispedito lo stesso la giabba del bufacco e basta. Si crede per rifondere a me. Lui gli ha cambiato il coperchio sicuramente e gli ha messo il vecchio che c'è. Non penso, secondo me è proprio la partita, è così. E ricordo il primo, quello che ho portato a Pierpaolo a farglielo vedere, quello lì proprio mi ha scoppiato, come è acceso dentro il suo, così ha fatto, ha subito un raio, immaginate, tu sei tranquillo, facile, cattogna zocco. Già. Quelli sono una partita che sono tutti difettosi, secondo me, tutti così. Qualche piccolo accorgimento magari vanno bene, perché è come se entrassero in protezione, però poi si sente un rumore un bel forte come se fosse un corto. Vabbè, io questo qua che penso adesso mi sembra che abbia 5 anni, ed è come il primo giorno che l'ho comprato. Anche io gli altri, specie quello che ho comprato, da Fusaro, quello è buonissimo, ti dà 12 ampere, 10 ampere, 12, continui senza problemi, non si abbassa, niente, proprio di lusso, quello che ho trasformato all'interno, vabbè, l'avevo pagato la bolletta di 95 euro ed è un 10 ampere, un 10-12 ampere, sono 10 nominali. Ma guarda, ma pure questo non mi posso lamentare, è un buonissimo alimentatore, l'ho messo anche sotto sforzo e va alla grande. Ma il mio è nato bianco, con gli strumenti senza luci, e niente, io gli ho fatto le modifiche. Ne ho messo le luci, gli strumentini, ho tolto il coperchio, l'ho subito verniciato di nero perché il bianco ci stava male, e l'ho fatto nero come tutte le altre apparecchiature. No, il mio strumenti non ne ha, però guarda, è un amore affezionato, va veramente bene. Cioè, non, fino adesso non mi ha mai dato una noia, fino adesso. Ma sai cos'è? Che con gli strumenti puoi regolare, puoi fare, capito? Se vuoi la tensione più bassa, ne hai più bassa, e quando sono regolabili è un'altra cosa. Quello lì è fisso, vabbè, se ti va bene per quell'apparecchio, ok. Però se devi usare uno che assorbe meno o assorbe di più, non puoi regolarlo. Invece c'è quella possibilità di regolarlo, se in tutti e tre gli strumenti io posso regolare la rigidità. Sono andato a aprire la porta. Ma stai dicendo già? No, ho detto che la differenza tra un apparecchio che, anche se non ha gli apparecchi, funziona bene, un apparecchio che funziona bene con gli strumenti, è il fatto che puoi tenerlo sotto controllo e puoi aumentare e diminuire la tensione, ecco, il voltaggio. Diciamo che se va bene per quel tipo di apparecchio, casi non affutti degli strumenti. sta a fare? No, vanno bene per tutti gli apparecchi. Se attacchi il tuo va bene per il tuo, se attacchi il questo va bene per questo. Dipende, si tira anche quello piccolino che si tira. Ha fatto un... però se lo porta. Già lo so, già lo so. Se io lo tengo basso basso questa sono 5 ampere. Scappa, non mi sono, ladro. Questo qua, se io lo tengo al minimo, come se 5 ampere di assorbimento. Se lo tengo, assorbe quasi 10. Con l'apparato lì. Cavagalo. Come si gatta con questo alimentatore che da 7 ce la fa tranquillamente? E questo da 75 watt tanto al massimo. Chiappa. Ma io attacco questo alimentatore, va bene. Non lo so, mi vado a laterale si caga quello riscoletto. Chiappa, se ti so voi vendi che l'avevo provato pure con chi tu coso. Un chi tu coso accentato. Magari ti va, ti ah sì, sì, ho capito. Chiappa. Lo faccio un po' che te lo dia, però lo butta. Vabbè, quando lo vado a studiare io non è pulsante. Non deve fare nessun effetto quando sta andando. Se no, se la tensione ce la di meno di quella cosa invece è sottalimentata e può anche partire. Non partono, stai tranquillo, te lo dice attorno. Perché... 7-10 di spunto c'ha, mi sembra, non me lo ricordo bene. C'è un buono spunto anche, quindi ce la fa per quello. E altro già lo so, ne ha avuto di quelle alimentature, ha avuto ZG602, quello con gli strumenti, ne ha avuto pochi di alimentatori. Tu pensa che cambiavo stazione molto spesso io, non ero sempre fermo alla stessa roba. Io prendevo e giravo come tutti gli altri. Se abbiamo i due cibi abbiamo avuto sempre anche radioamatori spesso, l'abitudine di migliorarsi, di cercare apparecchi nuovi, più sofisticati. Quindi cambi, è normale. Se poi avete l'apparecchio più grosso, ha bisogno dell'alimentatore, che è un alimentatore più grosso, se cioè devi cambiare anche l'alimentatore. Quindi immaginate tu gli alimentatori che io ho avuto, sia a casa di mamma, sia a casa mia, perché io modulavo anche da casa mia prima, avevo fatto il buco nella ringhiera, poi mia moglie me l'ha fatto tappare. Gamba, gamba. Vabbè. Comunque va bene, c'è anche due lame di raffreddamento questo qua. E non, adesso d'estate non scalda tantissimo, cioè non mi posso lamentare già. Io ho costruito, un giorno te la farò vedere, ho costruito una ventola con tasto incorporato, insomma fa tutto. No? La puoi appoggiare dove vuoi, la prendi, la appoggi sull'apparecchiatura che vuoi, quando sta scaldando gliela appoggi a far raffreddare e poi lo metti sull'altro apparecchio, così almeno non hai problemi di nulla. Gappa gappa. Ah, comunque dai, no, sono contento di questo coso qua, è anche il fungibile sopra l'alimentatore. Cioè, maneggevole, vuole tutto per cambiarlo anche, lo cambi subito. Ieri mi sono trovato un tasto di quelli di elettrodomestici, ce ne prendete quelli quadrati. La cosa, la ventola me la sono comprata, dove sono andato a comprare a aggiustare il computer. Nel negozio c'erano delle ventole, ho chiesto quanto costavano e mi ha detto guarda quella lì costa 6 euro, però me l'ho fatta dare. Ho fatto dare questa ventola che è abbastanza veloce e tutto. Cosa ho fatto? Gli ho affiancato alla ventola, gli ho affiancato l'interruttore, ho preso il nastro, gli ho dato tutto un giro attorno e posso pilotarlo direttamente dalla vicina alla ventola. Pagato. No, l'hai fatto fare quello là, l'hai fatto, vero? fatto per l'estate, per gli apparecchi, per tutto. Dove vedo che scaldo, a prenderli lo metto sopra, non ne ho fissato sopra niente. Fatto bene, quello che scalda di più soprattutto sono quelli a Parigi. Quelli lì purtroppo è così, se scaldano. Vabbè, se non fa passare di lunghi lunghi si scalda. Chiaro. E già scalda abbiamo ottenuto, di più. Fischiano. Ma fischiando, hola. Ma sei tu? No. E allora, io non lo chiedo a fare. Tu rende bene. Sto fischiando con la bocca, sembrava che stessi innescando. No, ma non mi sembra. Ma rimani la macchina parcheggiata, ha visto la vette, siete usciti verso l'ora di pranzo, così? No, negativo, non siamo usciti. Che cosa? Capo, no, non va da nessuna parte. Io sono andato a farmi un giro. Prima è morto, poi mi ha preso la macchina e ho fatto il giro in macchina. Ma non c'è più nessuno, non sta più entrando nessuno. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, meglio pochi buoni. Voglio solo apri la bocca un po' di niente, ma da fuori, c'è poca sostanza. Non so. Io l'ho detto al caporedottore, prima li sentivamo spesso, adesso è un periodo che è un po' la matrice, te li va a vedere in verticale, là. Chiaro. Una cosa è certa, che non voglio più sentire le favolate, non voglio più sentire. Ma è gente che dice quella, quell'altro. E infatti, sinceramente. Diceria mi ha dato sempre fastidio. Guido, mi guido, attivamente, guido di fase, bomba. C'è gente che non ha altro da fare, allora fa queste cose, lasciamoli fare, se no va del medico. Mi scappa. Fanno ridere. Soprattutto una persona mi fa che non per ridere quando stava sempre un quel molto inverso, cioè. Caparetto qua. Ma vuoi più facciamo? Già lo so io, cioè. Ah? Guarda, conosce Brutto. Ma sei Agostino che ha visto? Ha visto. A Faccone. Dove l'ha visto? Sorso, a Sorso. Ha detto che era a fare la consegna a Sorso. Ha detto, cazzo vuoi sta Falcone? Ma cosa vi fa dire a Sorso? Ha detto, non se l'ha visto da casa. No, che ci abita la sorella, sta tenendo lì. Ha detto che stava facendo la spesa. Ah, tu non lo sa fare. Beh, la consegna è stato civile tanti anni. Gioco la tosta. Chiamava Ago, Ago. Ago Cocole. Ma sei là? Non ha più, non gli è più interessato. Chi sta venendo sempre, ma lo fa, anche ieri c'era di servizio. Ha fatto servizio anche ieri, ma solitamente non ne fa mai. Capa, no, lo baracchino. Ah no, dice che aveva venuto tutto quanto Angelo Cerchione. Chi sa che ne ha fatto che? Ha dove trovato la dita? Aveva veduto una gran pena, fa non fa ancora ce lo farà, senza mai usare. Chiappa, magari la roba ce l'ha mia Angelo. Boh, non lo so. Comunque il baracchino di Agostino era bianco, era un Midland bianco, tipo quelli della Marina. Non l'ho mai visto, no? E la stazione è base. Sera, signori. Ma sera lì. Sera lì. Adesso detto dentro e faccio il break. Ah, buonasera, che c'è Sandro? Franco, canale 21. Ti ho fregato, buonasera. usiamo il gergo GB. Ciao, ciao Andro. Ciao, per gli amici già non c'è neanche bisogno. Sì, vabbè, dai, si scherza ogni tanto. Vabbè, sentite, già mi sentite che sto usando un attimino il cavallino, dai. Cavallino di battaglia, mi sente bene, dai, è chiaro la voce, va bene. Allora, Alessa. Non sarebbe male fare break, essere cordiali, eccetera, eccetera, però non è male. Ma io stavo scherzando adesso perché ti ho preso in fallo, perché tu l'altro giorno non mi hai detto fai break, anche tu stavi scherzando naturalmente, quindi adesso io rifaccio la battuta. Sì, ok, dai. Va bene. Vediamo un attimino, ogni tanto adesso ci vuole a scherzare un attimino tappato, no, e poi cazzo diventa una cosa troppo monotona, sai, fai il passaggio, quel sede, quell'altro, fai come quelli che vanno al ristorante di lusso a mangiare, che sbucciano la mela col coltello alla forchetta, che i gamberi gli sbucciano al coso, e da voi alla fine è tutto naturale. Poi alla fine non vi la fate di più, ma ne ricorrivate. Ma in effetti è così, dai. Ok, Radu Andu, riprenditela. Kappa, bella modulazione, Sandro. Che radio c'hai? Ma guarda, ogni tanto lo metto... Ogni tanto lo metto in funzione, è un vecchio media andata a battaglia, capito? Con l'abbinamento diciamo di un mic. E ogni tanto lo possiamo riscaldare, se no guai. Gappa. Secondo me dove si tratta più chissà che l'altra. E molto mi piace molto. Sì, ok. No. Diciamo tutto diciamo la perché se poi uso mai che storia o mai che fa male, poi allora non lo. E vabbè dai, non è tanto la potenza, ma che bisogna diciamo farsi sentire tutto lì. Va bene Gianni, riprenditela, dai. Mica se ci lasciano parlare qua. Sono apparecchi praticamente molto validi e ammirati con un buon microfono danno anche le stesse soddisfazioni. Ma mi è sembrato che c'è Luca, mi è sembrato. Non ho capito, tu cos'hai detto? Mi è sembrato che ci sia Luca del Monte. Già, ripetimi perché, aspetta che ci mettiamo in cuffie, perché non riesco a capire bene. Io volevo mettere la portante, non lo so mettere la portante, buonasera a tutti. Ciao Luca. Antonio ha detto che ne sembrate sentire Luca, fate certo, esci da Pisa, avanti. A tu, ciao Sandro, mi ascolti anche a me o no? A me, cerca avanti a tu. Ah, è logico che ti sentirate. Ciao Luca, buonasera, avete sentito? Ciao Gianni, ciao Antoni, ciao Sandro, avanti già. Ehi allora, vabbè. Cappagappa. Allo gusto c'è stato la nuda. Adesso la computer già, aspetta anch'io, abbasso qua. Ma anche io ogni tanto, guarda, io stavo parlando con Sandro. Ho sentito adesso faccio un paio di passaggi a far scaldare la belvetta, è una porta come tipo, però qua mi ha dato risposta, sono qua mi ha dato 100 euro, perché il mio non gli ha venuto, sono questa qua, e come già che mi trovo un baracchino, quindi guarderò e fermiamo pure quello. Tu devi anche compri un professionale. Luca già mi rinviava, c'è un bravo a pagarmi. sa, ti interessa un 4,40? Un 140. Sandri? Ok, sto provando a mettermi le cuffie, mi sa che è partito il jack delle cuffie. Ok, mi stavi dicendo? Ho detto ti interessa il 140. Adesso te ne faccio io una. Ti interessa un 9,50? No, a me no. Io non li uso quegli apparecchi. No, non 140 lo sta vedendo Luca. Ciao Luca, me l'ha scusato. No. Basta. È inutile stanno a avere 10.000 che poi non ne fai niente. Infatti, ciao Sandro, che te. Vabbè, comunque. Dicendo che questo tipo, vabbè, gli ho fatto il VU, detto che è contento, è nuovo, come gli avevo descritto, funziona bene, poi anche c'è una cosa, gli ha fatto la suicida modifica, un po' di spazio di frequenze, diciamo che non ha detto niente, è contento. E ci vogliono anche i baracchini, per trovare c'è un figlio se ti interessa. Mi ha fatto un approccio, però ancora non mi ha risposto. Se non vuole, c'è un problema, lui mi fa sapere, così io lo metto dentro la scatola, io devo bene, glielo spedisco. Ma se io mi provo a fare la ricarica, non l'ho fatto prima per il VU, quando ti vengo la ricarica, la rispedisco alla radio. Ma quanto hai fatto il posto pay? Infatti lui che te l'ho fatto da un bel tempo quello. Ma su eBay l'hai venduto? No, su subito.it. Ah? In Sardegna? Qui il Piceno. Vabbè. Hai fatto quella prassiri che l'hai spedito tu. Allora, sono un amico, perché alla moda non c'avevo soldi già. Normale, anche forza da modulazione. Capisce? che c'è bello per quello. Guardi Santo. Santo si deve essere appeso. Diciamo che quello lì ha lo stesso problema di quello che va quello di San Vito, te lo dico di quello di San Vito, quando andavamo in macchina sentivano le persone che erano nel canale e sembravano di splatter. Quando erano forti i segnali sentivano così, se l'avevano messo a posto, non mi ricordo che se l'aveva messo a posto, forse Roberto le aveva fatto tardi. Ti copia tu? L'ha messo a posto Roberto. Ho detto che San Vito c'aveva lo stesso problema tuo, tu l'avevamo mandato da Roberto e lui aveva tutto tarato, si sentivano le persone per lì sul 21, noi eravamo sul 21 e sembravano che fossero sul 20, capito? Come di splatter. Adesso vediamo, dai. Ci vogliono soggetti sapere qua, cioè se quello integrato veniva letto, vabbè, quello la cambia sicuramente, perché se mi furti praticamente mi sento male, tipo il tuo è forte, sapete che sento, ti ascolto bene, però quando sono preso dei più alpini, ma secondo me mi sento male, capito? Adesso vediamo. Scusate, stavo guardando un po' queste cuffie, ma lascio perdere la domanda. Oh Luca, ma non è che è leggermente fuori linea, no? Ma che cosa? Il baracchino? Aspetta. Un fischio. No, sì, è spostato di in mano laterale, però è perfetto. Diciamo che è fuori linea, dai. Diciamo che vuole allineato. Magari in FM la modulazione è più chiara. vogliamo andare in FM? Prova a fare un passaggio in FM a vedere un po'. Attenzione, Santo, K. Ok, allora, un po' meno. Ok. K, io adesso ti sento un po' male, ti sento, boh, forse c'è qualche cosa meno centrata. La colonna in FM, diciamo, la modulazione è un po' più chiara, capisco, leggermente più alta. Sta fermando male, non si è centrato bene, controlla il clarifer. Che clarifer? Clarifer, questo non è un clarifer. Se cappa, aspetta, è forse in AM. No. Se cappa, tu cazzo sei? A padrumente di Zeggia? No. Sono qua io. Luca, hai chiamato Luca? Io ho aspettato che rispondesse. Chiappa, Sandro c'è? C'è solo. In FM, diciamo, la modulazione è leggermente più alta, capito? Ti sento leggermente... Già, questo diciamo è degli anni 80, e Clarifer non ne ha. Ha le velvettine e basta. Andrò, no, non ti riusciamo a sentire. Non lo sentivo. Passiamo in AM, eh. Capo, di solito qua ho sentito una bomba io, se non è la radio esatta. Sono in AM, tu vai AM. Come qua in AM? È un po' più chiara qua, anche la tua è chiara qua. Lì la rimane più bassa, anzi. Capo, ma di solito da lui arrivavo più forte però. Ah. Il contrario era. Però sicuramente non c'ha la radio adatta, capito? Appagato. No, in FM a tutti riesco a sentire meglio, capito? Sì, leggermente più alto di voce, insomma, più comprensibile. Ma io non riesco a sentire bene a te invece. Non lo so, qua c'è poco da toccare. Qua infatti già non è che c'è centro un clarifer, non c'è niente da centrare, questo c'è la levettina, butti su in FM e boh. E comunque a me lo faceva, facevo degli appatti che per dire anche se per dire in banda laterale il clarifer lo mettevo in una certa posizione, poi andavo in AM, se non lo ricentravo al centro mi dava problemi, non mi faceva sentire bene e praticamente non uscivo meglio. Ok, dai. Sì, vabbè, dipende dal apparato adesso. Questo ha i suoi anni, allora insomma, è fin tanto diciamo che va in AM, capito, tutto lì. Va bene. Ok, signori, dai, mi devo assentare un attimino, che devo portare il signorino a fargli la passeggiata. Cappa. E a trovare la signorina è stata più una vera. Ah, adesso incomincia, no? Cappa. Vabbè, là, buona passeggiata e niente, tanto ti tratterai poco, quanto lo ti dico? Ne approfitto anche io a farmi 4 passi, capito? Giusto così per smaltire, per digerire un po', oltre che portare a lui ne approfitto anche io, ma una mezz'oretta ricerca così. Quando vedo proprio che non alza la gamba, allora. Vai bene. Il cane è quello che ti dà questo impegno di scendere, di fare la notte, la mattina presto. Invece il gatto è autonomo, fa tutto solo. Lo pulisci, lo lavi, eccetera. Però fa tutto solo. Ho capito. capito, lo so. No, ma guarda, fa anche bene, capito, perché se non ci fosse stato lui da portare, magari sarei stato buttato sul divano, questo e quell'altro. Invece vedi, è una scusa giusta per, dopo mangiato la sera, ti fai quei quattro passi così, un po' di movimento. Va bene, dai. Ce la risentiamo tutte le prossime. Ciao Gianni, ciao Antonio, alle prossime, dai. Ciao Alessa, sentiamo, buona serata, dai, buona passeggiata. Ciao Alessa, ce la risentiamo, buona passeggiata. Ciao Luca, ci sei? Luca sta... Drumene desidera. Mi è venuto un colpicino di sonno, ma adesso siamo passati. Capo, dimmelo, almeno ti. Almeno ti fa una riposata e via. Fagappa. Luca! Mi pare che Luca non bene. Ehi, andato al PC. Ma sai che stasera mi si stava spegnendo continuamente, non era la carica tu, perché a caricare l'ho messo stasera, tutta la sera, quindi non era la carica. E poi se ho messo la mattina, poi ci ho pensato bene, l'ho messo a caricare. E la cosa ha approcciato il tuo computer? Poi sai che sta scaldando, butto. Sì, e bisogna rimettere le ventoline, là. L'ho usato sul letto, quindi non le ho messo. Ma sul letto bisogna stare attenti, ci vuole il tavolo, ci vuole per metterlo. Il letto c'è grande, non è che il fatto è che non traspira, non c'è l'aria calda, capito? No, deve essere fatto bene, non può essere affogato, o magari non è neanche quello. Non lo so. Non è che sta scaldando troppo. Chiappa. Boh, e sul tavolo l'avete provato, ha usato molto. Oh, di usarlo adesso non c'è più gana. Non lo spango anche qua perché mi sta avendo un sonno ma allucinante. Non ho dormito dopo pranzo oggi e sono un po' di coglione. Ma chiappa. Prova a usarlo sul tavolo già a vedere. Ma va, non me ne pesa tu. Non me ne pesa su bubucato, il computer è dentro. Cazzo, non ti dico che azienda va domani. Sì, ma come la fredda si riprende, io lo so già. Cappa, no, dico, posso usarlo sul letto a provarlo a usare sul tavolo normale, tradizionale. Me l'ha fatto anche sul tavolo. E allora non c'entra niente. Sicuramente boh, c'è qualche difetto. Gira qualche ventola. Cazzo. E però quando l'avete preso sempre nulla era. Si toma la fase con il computer. Cappa. Vediamo il nostro, cioè, vanno sempre bene, non ha mai avuto questo problema, sicuramente è proprio uscito male dalla fabbrica, ma ne ho visto tanti altri, ne ho visto, no, non danno nessun problema. Dormendo? E ancora ti saluto, ti auguro buonanotte e una buona giornata per domani. Mi stavano chiedendo gli occhi da sole e non mi sono neanche accorto. Ah, ciao già, buonanotte. Dai, ce la risentiamo domani alle prossime. Ciao ciao. Meno male che stasera è una modulata. Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte.